24 mattino estate con Irene Zerbini. E ancora una volta buongiorno, ben ritrovati, 7:17. Questa mattina ci soffermeremo su alcuni aspetti legati al lavoro. Attenzione, in agosto. Quando ci si ferma, forse è il caso di riflettere anche sulla propria vita, abitudini e esistenze. Se volete partecipare, 349, questo è l'SMS, 238-6666. Il sondaggio che commenteremo aprirà il nostro dibattito a bianco o nero, si sofferma sull'immigrazione, oltre che di lavoratori generici. Vi abbiamo chiesto oggi: abbiamo bisogno di immigrazione qualificata? Perché in questo sì, l'Italia è indietro, è arretrata. Mancano circa 57.000 teste, una volta fatto il bilancio tra i cervelli che fuggono all'estero e i cervelli che importiamo. Ebbene, i laureati arricchiscono i paesi nei quali approdano e l'Italia non solo non contrasta questa fuga di capitali, perché un laureato formato, istruito, già pronto, è stato anche un investimento pubblico e statale per la formazione. Non solo non lo contrastiamo e andrà ad arricchire naturalmente aziende e università di altri paesi, ma addirittura non siamo in grado di attrarne. E anche quelli che per bizzarra inclinazione personale decidono di approdare in Italia vengono scoraggiati a rimanere. Ma ne parleremo alle 8:30 ed entreremo nello specifico di queste problematiche. Prima soffermiamoci su lavoro e felicità. C'è chi dice che lavorare di più porta inevitabilmente a una grandissima gioia. È il risultato di una ricerca del professor Christopher Sea. Christopher, sì, ecco qua, un altro cervello straniero, lo si nota non solo dal cognome, ma se volete prendervi la briga anche di controllare la sua biografia sul sito della University of Chicago e vedrete che ha dei tratti somatici asiatici, anche in questo caso importato dopo la laurea. Ebbene, questo cino-americano ha trovato, dopo vari esperimenti, che coloro che hanno una tendenza al tenersi in attività, al non lasciarsi andare alla pigrizia e a lavorare di più, sono più felici di altri che invece in qualche modo cercano di rifuggire questa operosità. Eppure in molti casi, soprattutto tra i dirigenti, si riscontra il problema dell'eccesso del lavoro, dello stress. E per parlarne abbiamo oggi scomodato uno specialista, un personal coach, si chiama Doug Heidebrecht, lavora tra Stati Uniti e Canada e parla anche italiano. Grazie per essere con noi, Doug, buongiorno. Buongiorno Irene. Senta, lei è chiamato dai manager, dalle aziende, così a tirar su un po' il morale dei quadri dirigenti. Cosa fa esattamente un coach? Un coach aiuta le persone, le gente, a capire quello che vogliono, dove vogliono andare con il loro lavoro, con la loro vita e come per loro sarebbe il migliore modo di andare lì. E questo è che fa un coach. Aiutare a capire le persone dove vogliono andare, cioè lei dice tante volte immersi dai ritmi frenetici perdiamo di vista gli obiettivi, cioè cosa c'è di difficile nel sapere dove una persona vuole andare? Solo l'individuo può saperlo. Ma come si fa a saperlo? Quello è spesso molto difficile. È una domanda che può rispondere solo la persona e ci vuole tante domande, tempo da riflettere e così una persona piano piano capisce meglio cosa vogliono nella vita e cosa si può andare anni senza sapere proprio quello che si porta felicità, per cui domande giuste. E quindi si può andare avanti per anni, lei dice, essendo un po' ottenebrati, pensando di sapere ciò che si vuole in realtà, avendo perso di vista l'obiettivo. Ma lei, quello che mi intriga è questo, Doug Heidebrecht, lei viene chiamato dalle aziende. Ora, senza stare a citarle, sono grandissime aziende che esistono anche da questa parte dell'oceano, esistono anche in Europa, in molti casi, che la chiamano per passare una settimana, un workshop con i manager. Che interesse ha l'azienda a vedersi i propri dirigenti più felici? Dov'è l'interesse aziendale? Ma è un vecchio detto, le gente che sono felici sono più, lavorano meglio. E adesso piano piano c'è più e più prova per questa. Ho alcuni clienti che fanno sondaggi, vogliono soprattutto fare i clienti felici. E fanno sondaggi di questo, anche per loro dirigente, e anche fanno sondaggi della felicità del dirigente, e so guardano quando i clienti sono contenti e quando le loro persone sono clienti, e c'è una correlazione fortissima, per cui questo è solo un esempio di come le aziende stanno capiscono più e più che è buono per guadagnare. Quindi non lo fanno per ragioni umanitarie, perché avere un management molto motivato e molto felice poi porterà alla felicità del cliente, una correlazione interessante. Nel suo sito Managing Me, Doug Heidelberg, lei parla di programmi per questo personal coaching, per il portare praticamente questo bilancio nella vita tra tempo libero e lavoro. Ma in pratica lei cosa fa quando si presenta nell'ufficio di un direttore generale o del dirigente di una compagnia? Cosa gli dice? Vai a casa a giocare a tennis, stai con i tuoi bambini. Cosa fa in pratica? Assolutamente no. Ci guardiamo diversi aspetti del lavoro. Progettazione, come si organizza l'informazione, queste cose, da aiutare le persone a capire, ok, in quali aspetti siamo forti e quali aspetti c'è un'opportunità di crescere. E così si può arrivare con soluzioni, ok, c'è questo aspetto in cui sono bravo, va bene, ma c'è questa cosa che non faccio molto spesso, potrei farlo più spesso. E così si impara, ok, andando avanti, nei prossimi anni, che cosa posso fare differente in come progetto il mio lavoro, le cose che faccio, le cose che non faccio, come il mio... E lei li aiuta a mettere a fuoco ciò che hanno anche perso di vista. Ora, questa ricerca che in qualche modo enfatizzerebbe il segreto della felicità, cioè lavorare di più, lavorare tanto, cozza con quelle che sono state per anni anche le rivendicazioni dei sindacati in tutto il mondo, cioè l'allungamento dei tempi di lavoro spesso è stato a giovamento dei datori di lavoro, ma non di chi poi questo lavoro doveva svolgerlo, e soprattutto la riduzione degli orari di lavoro, oltre ad essere stata storicamente al centro di lotte, ha sempre danneggiato il manager, il dirigente, la lavoratrice, ogni livello, donna. Maria Cristina Bombelli, docente all'Università di Milano Bicocca e consulente aziendale. Lavorare di più porta alla felicità. Sottoscriverebbe questa frase? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ma no, non la sottoscriverei, nel senso che secondo me va un pochino calibrata questa frase, cioè gli ultimi studi mettono in luce come sicuramente raggiungere degli obiettivi, avere delle relazioni positive all'interno del luogo di lavoro è fondamentale. L'altro giorno un amico che ha avuto una bambina 3 mesi fa mi diceva che sua moglie già pensa al lavoro e lui era molto preoccupato di questo, e io gli ho detto che è molto normale, che il fatto che noi abbiamo dei figli e ci realizziamo nella maternità però non è alternativo al fatto che il lavoro poi diventi una parte essenziale della nostra identità. Quindi questo è il primo problema, dobbiamo conciliare prima che i tempi le nostre anime, in qualche modo la nostra identità, e questo è importante. Ma non si crea a volte una specie di dipendenza da lavoro, una specie di droga per cui... No, vediamola però in termini positivi, nel senso che il lavoro oggi è una parte essenziale dell'identità. Quando ci presentiamo diciamo il nostro nome e quasi subito, anche in ambiente ludico ci si chiede cosa facciamo, perché questo è diventato un elemento importantissimo. Importantissimo proprio in senso di autorealizzazione. Ecco, quindi questo è il primo aspetto. Allora, il problema delle donne è davvero di conciliare queste due cose, e forse anche i suggerimenti che dava Doug precedentemente, mettere in fila le idee, riuscire a decidere che cosa si vuol fare, organizzarsi meglio, questo certamente ci può aiutare. Però è importante capire che queste due cose non sono alternative. E non è immediato. Senta, una volta si parlava, se ne sente parlare sempre di meno, di segregazione verticale, di soffitto, sì, di vetro, cioè l'impossibilità o la maggiore difficoltà della donna a raggiungere delle posizioni di comando, se vogliamo chiamarle così, o di alta responsabilità, proprio per discriminazioni esplicite, perché ormai lo si chiede esplicitamente per esempio a certe lavoratrici di impegnarsi a non rimanere incinta durante il contratto, anche se poi davanti a un giudice quella carta non avrà alcun valore, però intanto è stata formulata, porta a una pressione. E ci sono ancora secondo lei questi meccanismi sul retaggio del passato? Purtroppo sì, è quello che diceva anche Doug prima, il mondo aziendale è un mondo molto articolato, noi abbiamo piccole e medie imprese ma anche grandi imprese che ancora fanno questi ragionamenti, tra l'altro un po' assurdi, perché lei pensi che l'Italia è il paese più denatale del mondo, noi abbiamo meno bambini pro capite della Cina, che ha una politica obbligatoria, questo significa che l'impatto della maternità in termini globali, in termini generali per l'Italia non può essere di un costo troppo eccessivo, eppure molti imprenditori e dirigenti ragionano ancora in questo modo, però ci sono anche tante aziende, lei diceva prima per il coaching, ma le aziende non lo fanno per i propri lavoratori, no, io direi che ci sono due aspetti, uno è sicuramente quello della produttività. Abbiamo un minuto, professoressa. Come veniva sottolineato, e l'altro però è anche l'aspetto della responsabilità sociale, secondo me tante aziende si stanno occupando sempre più di responsabilità sociale. Quindi non solo profitto ma anche il benessere dei propri, esatto, dirigenti e dei propri lavoratori, secondo lei è all'ordine del giorno sempre di più. Sì, Maria, sì. Cristina Bombelli, grazie, docente, grazie a voi. Arrivederci. All'Università di Milano Bicocca, a sua volta consulente aziendale. Una domanda da Heidebreg, che lavora in Stati Uniti e Canada. I manager con i quali ti trovi a che fare per aiutarli, diciamo così, a tornare in contatto con se stessi e a capire cosa vogliono fare, da che parte del mondo vengono? Da per tutto il mondo ormai. Da tutto il mondo? India, Brasilia, Cina anche. E quindi non è una classe dirigente omogenea da quella parte dell'oceano, non abbiamo scoperto nulla di nuovo, ma grazie a Doug Heidebreg, personal coach, come avete sentito. Proprio di questo ci occuperemo. Noi in Italia avremo bisogno di sprovincializzare invece la classe dirigente, avremo bisogno di importare cervelli, quali sarebbero i benefici? Questo è il nostro sondaggio sul sito www.radio24.it. Votate e ne parleremo più tardi. E anche se estate escono i quotidiani, abbiamo voglia di leggerli, a volte non ne abbiamo il tempo, allora ringraziamo Roberta Giordano. Grazie a te Irene, grazie a chi ascolta naturalmente. Perché tra pochissimo comincerà questo slalom su titoli e informazione. In primo piano. Ed eccoci qua, a parte i titoli, quali sono le notizie che ci possono anche sfuggire, che meritano invece una lettura nelle pagine interne? Guarda, oggi una potrebbe sfuggire, e te la dico tra pochi istanti, un'altra invece sulle prime pagine già ricominciano le polemiche sul Palio di Siena, che sono vecchie, ma qui c'è perché c'è un intervento di un ministro, anzi di una ministra, e poi dopo un personaggio molto noto, molto importante in Francia, importantissimo, che ha fatto una scena un po' particolare ed è sulle prime pagine di giornale. Ti ascoltiamo, sei sempre enigmatica, buon lavoro. Grazie a te. Eccoci quindi, dicevamo, queste notizie poi dopo in secondo piano, ma la politica persiste da lunedì, tutta questa settimana in cui ci siamo tenuti compagnia, sicuramente diciamo la notizia centrale, anche se ormai si avvicinano anche i parlamentari alle vacanze. Però che cosa è successo? Quindi prima lo strappo, il divorzio tra Fini e Berlusconi, quindi Finiani che hanno creato un nuovo movimento, schieramento, Futuro e Libertà. Poi il voto di sfiducia contro il sottosegretario Caliendo, che è stato però bocciato mercoledì alla Camera, e adesso si arriva un po' alla fattività, diciamo, almeno a che cosa far seguire a questo scenario, almeno nelle parole, negli intenti, poi vediamo. Quindi incominciamo a vedere dalle prime pagine dei quotidiani, anche se vorrei in realtà segnalarvi prima di tutto che il vero protagonista di questi giorni, visto da varie angolazioni, no? A seconda, scusate, di chi ne parla, è stato senz'altro il presidente della Camera Gianfranco Fini, e quindi si è guadagnato la copertina dei due principali settimanali italiani, settimanali di attualità e politica, che sono Panorama e L'Espresso, ovviamente da punti di vista opposti, più o meno, insomma. Quindi Panorama, la copertina vede Fini e la sua compagna Elisabetta Tulliani, che sono al centro di questa scandalo che ha lanciato in particolare il giornale di Feltri. Poi c'è questa battaglia legale, tra l'altro, tra Feltri e Fini. Fini lo accusa di diffamazione, c'è stata una querela, per questa casa di Monte Carlo, che farebbe riferimento in qualche modo appunto a Gianfranco Fini. Quindi titolo è scene su Panorama, scene da un patrimonio, quindi scene da un patrimonio. La procura di Roma indaga sulla casa di Monte Carlo lasciata in eredità all'ex leader di AN, venduta e poi affittata al cognato, cioè il fratello di Elisabetta Tulliani, la sua compagna. La giustizia civile si occupa della guerra sul tesoro conteso tra la Tulliani e Gaucci, Gaucci suo ex compagno da Tulliani, che a Panorama rivela: Elisabetta mi ha fregato e vi racconto come. Esclusivo, i guai della coppia Fini Tulliani. Questo è Panorama. E poi sempre Fini, sull'Espresso, vi dicevo, ha guadagnato la copertina di tutti e due i settimanali. Fini che prende una foto, insomma, dello schieramento della maggioranza, e ovviamente immagino che sia un fotomontaggio, e la strappa con uno sguardo un po' furbetto, la strappa in due, lo strappo appesi a un Fini. Questo è L'Espresso. La maggioranza si dissolve, il governo traballa e il voto su Caliendo alla Camera celebra la nascita di un terzo polo, e non è che l'inizio, il resto della storia è per buona parte nelle mani del cofondatore. Quindi dà anche un ruolo ulteriore di protagonista della scena politica a Gianfranco Fini. Quindi abbiamo parlato dei due settimanali, adesso andiamo a vedere invece come raccontano questo post voto di sfiducia bocciato al sottosegretario Caliendo. Il Corriere della Sera: Berlusconi piano per la fiducia. Ecco, vi dicevo, si passa insomma ai fatti, almeno nelle parole. Berlusconi che prepara la controffensiva. Sotto Bossi: così non si va avanti, noi e il PDL spazziamo via tutti. A settembre il Premier alle Camere con un programma in 4 punti, o il sì o le elezioni. E andiamo a vedere quali sono questi 4 punti. Silvio Berlusconi lavora a un piano in 4 punti, quindi giustizia, fisco, federalismo e sud, da presentare ai finiani. Questa è la particolarità. Un passaggio per ricucire lo strappo causato dal voto su Caliendo o per sancire la rottura insanabile. Quindi o ci rimettiamo insieme, insomma questo è il concetto, oppure la rottura si fa veramente insanabile con il voto anticipato, che sarebbe poi l'esito che sembra da più parti sempre più probabile, di un voto anticipato che ci potrebbe essere o a novembre o al massimo a marzo. Poi vediamo quindi invece Repubblica: Berlusconi e Bossi, bisogna votare. Casini: basta squadrismo su Fini, lo difende in questo modo. I PM indagano sulla casa di Monte Carlo. Il presidente della Camera: ben venga l'inchiesta. Di Pietro avverte il PD: scelga fra la legalità e la balena bianca. E poi vediamo un po' invece La Stampa. Il Premier piano in 4 punti, anche qui si mette in evidenza appunto qual è il progetto di Berlusconi. Berlusconi lavora un nuovo programma su cui chiedere la fiducia. Bossi: è difficile andare avanti così bocchino, noi mai con la sinistra siamo figli del bipolarismo. E poi vi dicevo in posizione centrale: basta Palio, bufera sulla Brambilla. E questa è effettivamente poi la polemica che è al centro di molte pagine, perché la ministra Brambilla ha, diciamo, un po' creato la polemica, perché ha detto, la ministra del turismo, che il Palio di Siena l'ha paragonato praticamente alla Cordida, dicendo che bisognerebbe fare come ha fatto la Catalogna in questi giorni, cioè abolirla proprio perché insomma è una crudeltà nei confronti degli animali, e poi fa retromarcia proprio perché ha scatenato insomma diverse polemiche. Questo per quanto riguarda Corriere, Stampa e Repubblica. E andiamo a vedere invece Il Secolo, che appunto è il giornale che fa riferimento a Fini e alla sua area politica. Allarmi, siam feltristi, proprio per continuare insomma questa battaglia, diciamo, a distanza, almeno sui giornali, tra Feltri e Fini. Casini dice contro Fini squadrismo mediatico e il TG1 manda Futuro Libertà all'opposizione. Che cosa succede? Andiamo a vederlo in particolare. Il TG1, questo dal Secolo d'Italia, il TG1 da canto suo ieri si è reso protagonista di una scelta editoriale che ha suscitato polemiche. Nell'edizione delle 13, infatti, una dichiarazione di Benedetto della Vedova, che vi ricordo è deputato finiano che ha seguito Fini in Futura Libertà, è stata inserita fra quelle degli esponenti dell'opposizione. Ovvio che il vice capogruppo finiano, nel vedersi in compagnia di Di Pietro e D'Alema, abbia protestato. Mi auguro sia stata una maliziosa svista, ha detto, nessuna svista, questa è stata la replica del TG1. Quindi volontariamente l'hanno messo insomma direttamente all'opposizione. Il Messaggero, ancora più esplicito, dice ultimatum di Berlusconi, appunto o si vota o si aderisce Fini e i suoi a questi programma di quattro punti che presenterò, oppure si va al voto anticipato. Bossi, così non si va avanti, anche sul Messaggero. Casini, è da irresponsabile andare al voto, e sembra che appunto le opposizioni anche Fini, anche scusate Casini, si dicano contrari al voto anticipato. Vertice del PDL dopo il caso Caliendo, attuare il programma o meglio le urne. Questo dal Messaggero. E il Corriere, il 24, Sole 24 Ore, scusate, ovviamente dà spazio nella prima pagina a questi scenari politici elettorali, e dice proprio scenari elettorali, la simulazione, se Fini sottrae al PDL il 4%, Berlusconi perde il Senato. Questa potrebbe essere appunto una situazione che si potrebbe profilare se continuasse lo scontro e la separazione netta tra i berlusconiani e finiani, diciamo così. Poi il Foglio in realtà dà evidenza in apertura con un titolo rosso, addirittura non tanto alla situazione politica, ma un argomento completamente distante e diverso. Il buon padre Sigmund, escono in Germania le lettere inedite di Freud ai figli, ritraggono un affettuoso patriarca che crede nei legami, nel matrimonio, nelle gravidanze anche non programmate, altro che demolitore della famiglia. Questa è un po' l'apertura del Foglio, anche se poi di spalla c'è un commento, anzi un fondo, ristrutturazioni estive, quella strana sintonia tra Tremonti e Letta in aiuto del cavaliere inguaiato. I duellanti della legislatura invitano la cautela sui tempi della crisi. Berlusconi riorganizza il PDL in vista delle urne. E vorrei darvi, prima di passare poi trasversalmente, diciamo, come i quotidiani trattano la situazione politica, anche una notizia che porta più in basso il Foglio. Arriva il grattacapo gay per Obama. Ed è notizia quella di ieri, un tribunale in California ammette i matrimoni omosessuali dopo vari corsi, ricorsi eccetera eccetera, e rovescia il referendum che li aveva banditi. Il presidente vuole evitare un dibattito pericoloso, ma la sentenza è già materia da Corte Suprema. Questo dal Foglio. Poi c'è il Giornale che, come vi dicevo, a partire proprio da lunedì ha sempre avuto l'apertura sulla questione della casa di Monte Carlo che farebbe riferimento a Fini. Infatti il titolo d'apertura anche oggi è perquisita la sede di AN mentre spuntano altre case. La procura avvia le rogatorie sull'appartamento di Monte Carlo, ma Casini non vuole sapere la verità e se la prende con il Giornale. Squadristi, dice, ecco tutti i beni lasciati in eredità al partito dalla Colleone. Colleone era questa contessa che appunto negli anni 90 ha lasciato ad AN, diceva, per la giusta causa, la giusta battaglia, vari suoi averi, tra cui questa casa di Monte Carlo. E poi sotto c'è un ulteriore sottotitolo sul Giornale che dice il vice direttore del Corriere, che sarebbe Pierluigi Battista, Fini chiarisca, dice tra virgolette, ma può scriverlo solo su Facebook. E da qualche giorno, diciamo, abbastanza associato al Giornale sull'apertura è Libero, che dice travolto dallo scandalo, tutti contro Fini, dimettiti. Berlusconi, Maroni e Di Pietro lo inchiodano PD gelido, solo il suo sodale Casini lo difende. Rogatoria dei PM a Monte Carlo sul giallo della casa di Alleanza Nazionale. Si indaga per truffa aggravata. Quindi abbiamo visto un po' le prime pagine e abbastanza velocemente i titoli sulla questione principale. Poi adesso cominciamo a vedere qualche scenario, qualche commento anche nelle pagine interne. In primo piano. Sempre Roberta Giordano con voi ancora questo venerdì, vi raccontavo un po' dalle prime pagine dei giornali. Intanto vi dicevo che i due settimanali che escono oggi, principali, Panorama e Espresso, hanno dedicato tutti e due la copertina a Fini in modo diverso. Abbiamo parlato delle prime pagine dei quotidiani più importanti e man mano andiamo anche alla Padania, che è portavoce insomma della Lega Nord. Governo Bossi al voto. Il Nord è sempre pronto, il segretario dice l'esecutivo tiene ma la strada è stretta, nessuna transizione, sarebbe il caos. La certezza dell'alleanza col PDL, il premier non è messa in discussione, si va avanti. Questo per quanto riguarda la Padania. Poi bisogna dire che c'è anche un quotidiano che, vista che ormai sembrerebbero sempre più probabili queste elezioni anticipate tra l'autunno e al massimo la primavera, quindi tra novembre e marzo, comincia però anche a vedere queste elezioni da un altro punto di vista, con un altro risvolto, cioè comincia a fare i conti. È il Fatto Quotidiano che titola così: elezioni che cuccagna, i costi della politica. Se si vota a marzo, i partiti riceveranno altri 200 milioni, aggiunti ai 600 ottenuti dal 2008, fanno 800 milioni. Non è troppo? Si chiede il Fatto Quotidiano. E anche lo stesso Fatto Quotidiano, come ormai un po' tutti i quotidiani, aveva iniziato appunto il giornale, ma poi gli altri almeno oggi danno conto della inchiesta che ha aperto la Procura di Roma su questa casa di Monte Carlo, appunto, che sarebbe in affitto dopo essere stata lasciata a Enne dalla contessa Colleoni, poi venduta attraverso società, sembra anche offshore, quindi che hanno sede in paradisi fiscali, e poi finita in affitto al fratello di Elisabetta Tugliani, compagna di Fini. Insomma, la Procura di Roma ha aperto questa inchiesta e quindi un po' tutti i giornali ne parlano. In prima pagina anche il Fatto Quotidiano: patrimonio Enne, ecco tutti gli immobili. Dopo l'esposto del nemico Storace, perché è partita da lì questa cosa, dalla destra, che di esponenti politici che erano all'interno di Alleanza Nazionale fino a qualche tempo fa, fino a qualche anno fa, poi sono fuoriusciti, hanno formato la destra e hanno fatto questo esposto dicendo insomma che il patrimonio di AN c'ha qualcosa che non va. Quindi, dopo l'esposto del nemico Storace sull'appartamento di Monte Carlo, la Procura di Roma apre fascicolo contro ignoti per truffa aggravata e manda la finanza in via della scrofa. E Fini dice ben vengano le indagini. Questo e tra l'altro, sempre sul scenario politico attuale, il Fatto Quotidiano riporta un altro titolo dove si parla praticamente di quelle che sono le reazioni del PD in questo momento, con anche prove, diciamo, di candidature, o anzi potremmo dire di autocandidature, perché dopo Vendola anche Chiamparino si dice pronto a correre per le primarie del centrosinistra sotto a chi tocca. Questo è il Fatto Quotidiano. E direi, dopo aver dato anche un po' di attenzione a un altro quotidiano, Liberazione, che intitola Tutti al mare e il paese naufraga, direi di andare a vedere anche appunto alcuni risvolti e alcuni scenari editoriali, quindi, che fanno questa analisi politica sulla situazione. Partirei da Piero Stellino, i numeri del Cavaliere su Il Corriere, e dice: dopo il voto parlamentare sul sottosegretario Caliendo è evidente che l'espulsione di Fini dal Popolo della Libertà è stato un errore. E diversi analisti politici in questi giorni dicono questo, del quale ora Berlusconi è prigioniero. Se prima doveva convivere nel PDL con un coinquilino fastidioso, ora deve fare i conti in Parlamento con un altro oppositore. Quella che prima era una maggioranza stabile, dice Ostellino, è una maggioranza variabile in quanto dipendente dal voto dei finiani. Un minimo di realismo, che in politica è sempre buon consigliere, avrebbe dovuto suggerire al capo del governo di convivere. Gli amici, non del tutto disinteressati oltre che avventati, gli hanno consigliato di divorziare. Forse il Cavaliere dovrebbe ascoltare maggiormente chi non gli è pregiudizialmente né favorevole né contrario e parla di problemi invece di fidarsi solo di chi asseconda la sua idea patrimoniale, tra virgolette, della politica e a ridurla alla propria persona. E prosegue Ostellino: sul Corriere. Ora, quel che è singolare, anche molti dei suoi amici nella maggioranza lo danno per finito e forse si apprestano già a saltare giù dalla barca che fa acqua, mentre i nemici dell'opposizione lo temono ancora, come dimostra il rifiuto del Partito Democratico anche della sola ipotesi di elezioni anticipate. E andiamo a vedere un po' la conclusione di Piero Ostellino. Stretto nella duplice morsa che egli ha prodotto con l'espulsione di Fini dal PDL, il Presidente del Consiglio ha un solo modo di ripristinare la propria leadership appannata: recuperare la vecchia spinta propulsiva liberale della prima ora, interpretare le esigenze economiche e sociali e le pulsioni di piccoli imprenditori, professionisti e autonomi che potrebbero essere fortemente attratti dalla Lega. Ne sarà capace, si chiede Piero Ostellino. Questa è l'incognita con la quale deve realisticamente fare i conti. E anche il Corriere poi parla di Casa di Monte Carlo, la finanza nella sede di AN e la rogatoria internazionale. Poi così parallelamente vi dico che un po' tutti i giornali anche riportano la notizia della modella Naomi Campbell che è stata chiamata a testimoniare al tribunale dell'AIA, la corte speciale dell'AIA, sui crimini del ex dittatore liberiano Charles Taylor, incriminato per appunto i delitti e i crimini internazionali, e ha confessato di aver ricevuto le diamanti che ha parlato, definito delle pietruzze sporche. Vediamo dal Corriere anche pagine interne, pagina 6. Casini dice squadrismo intimidatorio contro Gianfranco, evidentemente lo difende. Elezioni, dice, sarebbero una fuga irresponsabile. Tra l'altro il Corriere dà anche una certa evidenza a un commento del settimanale britannico The Economist, che così cerca di spiegare agli inglesi la situazione politica italiana. Dice: Gianfranco Fini è probabilmente il più abile politico italiano. Berlusconi governa secondo la sua volontà. Ora la questione è cosa pensa di fare Mr. Fini col suo potere. La politica italiana, dice The Economist, è entrata in una nuova fase di instabilità, tanto che, scrive appunto il giornale The Economist, raramente per Berlusconi una vittoria è stata così amara. E sembra che appunto sostenga abbastanza la posizione di Fini. Poi anche Repubblica all'interno dà molto spazio all'inchiesta sulla Casa di Monte Carlo, Casini, squadrismo contro Fini, e fra l'altro Repubblica riporta la fotocopia della schedina del Superenalotto che Elisabetta Tuliani dice di aver vinto e al quale si devono attribuire le sue proprietà, le sue ricchezze. C'è questa disputa adesso anche tra Gaucci, suo ex compagno la Tuliani. Gaucci che dice: io ho vinto il Superenalotto e ho dato a lei la metà della vincita. Invece su Repubblica c'è pubblicata la schedina che sarebbe nelle mani della Tuliani, e lei dice, la Tuliani smentisce Gaucci: al Superenalotto vinsi io, la cifra è 2.200.000.000. Questo per quanto riguarda appunto la situazione politica. Su Repubblica prima pagina c'è Curzio Maltese che intitola La catastrofe da evitare. Nella storia d'Italia le pagliacciate tendono a finire in tragedia. Lo scoppio della bolla del berlusconismo era prevedibile e previsto, ma purtroppo dal soggetto in teoria più interessato, l'opposizione, dice, non arriva nessuna reazione. E sono molto critici, diciamo, i giornali anche insomma con simpatia un po' più verso centrosinistra nei confronti del PD. Poi chiudere un po' in volata, visto che il tempo sta passando molto velocemente, vi dicevo quindi di questa polemica che riportano vari giornali, anche il Secolo XIX in prima pagina, innescata diciamo così dalla ministra Brambilla, che ha detto: anche noi, come in Catalogna, la regione autonoma della Spagna, dobbiamo abolire il Palio di Siena, e con tutti appunto i dibattiti che ha creato e ha fatto un po' di retromarcia. Però vi dicevo, è successo e ne danno conto diversi giornali, qualcuno anche in prima pagina, mi pare il Messaggero, sì, della sfuriata che il presidente francese Sarkozy ha fatto sul set del film che la compagna moglie Carla sta girando con Woody Allen. Sarkozy, scenata di gelosia sul set, le foto del presidente furioso finiscono sul tabloid e l'Eliseo dice: in realtà era soltanto stanco. Quindi potremmo dire come sono gelosi questi francesi, e il presidente in particolare, che poi dice si è vergognato, insomma ha fatto finta che fosse così un piccolo battibecco all'interno di una coppia. E per chiudere, sempre per quanto riguarda la Francia, Marcel Proust, con la sua ricerca del tempo perduto, è adesso sotto la lente di scienziati, di due ricercatori italiani, la ricerca pubblicata su Science, che svelano il segreto delle Madeleine, cioè di quei biscottini del dolce amato dallo scrittore. Dicono: ecco perché il suo sapore, cioè uno stimolo sensoriale, riesce a scatenare nel cervello la memoria dell'infanzia. Questo da Repubblica. E direi che, insomma, così, Irene Zerbini, siamo arrivate verso la fine. Molto interessante, stavo segnandomi il nome dei biscottini, vedere se li si recupera in qualche archivio. Grazie. Chissà che ricordi. Dico soltanto, proprio di ricordi, che insomma, per le ascoltatrici e gli ascoltatori, l'appuntamento è come sempre con me il sabato, se volete alle 14, con Non ci sono più le mezze stagioni, che a giudicare anche dalle ultime perturbazioni, per esempio a Milano... penso che sia effettivamente così, un titolo azzeccato. È bello però come confermi che le tue scelte siano state giuste, ce lo facciamo da soli ormai. Un po' di autocelebrazione, no, diciamo. Io sono una di quelle che ti segue sempre e grazie, dunque Irene. Ti saluto, la rassegna stampa continuerà anche la settimana prossima con un altro giornalista, Daniele Biacchessi. Ciao a Roberta Giordano. Noi intanto abbiamo le università piene di cervelli imparentati col barone, stando a quanto si scrive sempre più e a quanto si verifica, questo abbiamo noi in Italia, ma non riusciamo a piazzarne una di queste università tra le prime 50 del mondo, forse anche perché attraiamo pochi cervelli. L'Italia avrebbe bisogno di immigrazione qualificata, questo è il tema del sondaggio. Se volete votare, www.radio24.it, ne parleremo alle 8.30. Ben ritrovati, 20 minuti dopo le 8 parleremo di globalizzazione partendo da un dato umano, i manager, la mobilità dei dirigenti e degli studiosi. In Italia ogni 100 laureati nazionali ce ne sono 2,3 stranieri contro una media OCSE di 10,45. Negli Stati Uniti ce ne sono più di 11. In Austria 12, stiamo parlando del rapporto tra laureati nativi e laureati importati, diciamo così. In Svezia 14, in Olanda e Gran Bretagna 16, in Canada 25, in Australia addirittura 44. È chiaro che il rapporto in Italia tra i cervelli che si esportano e quelli che si importano è perdente. Mancano circa 57.000 teste, lo segnalava in un articolo l'anno scorso anche Gian Antonio Stella. Siamo xenofobi non per razzismo ma per pigrizia, clientelismo, gelosia accademica e professionale. Parleremo dei benefici della globalizzazione della classe dirigente, ma intanto vogliamo il vostro parere. Dovremmo, oltre a lavoratori generici, importare immigrazione qualificata? Votate sul sito www.radio24.it. Intanto noi andiamo a parlare con qualcuno che ha scelto l'Italia e, come sempre, a quest'ora del mattino è un giornalista o una giornalista, un corrispondente straniero. E allora benvenuta Gabriela Pentelescu. Buongiorno Gabriela. Buongiorno, bentrovati. Corrispondente della Radio Nazionale Romena, Romania Actualitati. Hai scritto anche per Metropoli, che è l'inserto per stranieri della Repubblica. Sì, ho scritto per quasi 4 anni e questa collaborazione mi ha dato anche l'opportunità di iscrivermi all'Ordine dei giornalisti qua. Io vivo a Napoli, l'Ordine dei giornalisti della Campania. Vivi a Napoli, questa è una caratteristica strana per un corrispondente. In genere sono piazzate o a Roma o a Milano, quelli che abbiamo incontrato finora. Da Napoli hai delle prerogative particolari, hai dei punti di vista decisamente diversi. Per esempio, cosa hai raccontato di Napoli in Romania? Guarda, di Napoli ho raccontato di tutto e di più, anche perché, come ben sai, si può raccontare tanto di questa città. Sono i paradossi di questa città, anche perché ho cercato di riflettere anche il mio rapporto di amore e odio con questo posto, no? Sono quasi 8 anni che vivo qui, sono riuscita a scoprire un po' alla volta tutte le sfaccettature di questo posto e spesso dico che il mio rapporto con questo posto è lo stesso col caffè napoletano, perché cioè? Prima mattina possiamo dirlo, no? Sì. Se vedi a Napoli un napoletano, uno straniero, vedi qualcuno al bar che prende un cappuccino alle 5 di pomeriggio, lo sai di sicuro che non è un napoletano, è nemmeno italiano, penso. Così è successo anche a me, perché non reggevo il caffè, quello vero, napoletano, stretto, tutti i segreti del caffè che sono raccolti in questo caffè napoletano. Questo periodo, no, del mio cappuccino qui, ha corrisposto al periodo della conoscenza del territorio, dei primi passi. Poi al secondo passo è stato quello delle varie specialità. Io ho avuto una debolezza per il nocciola caldo, che alla fine è stato il seguente passo, no? Il rapporto, il contatto diretto, se vuoi, con le varie autorità, con l'amministrazione, con i posti, anche con la gente semplice, la ricerca di un macellaio, no? del panettiere, del fruttivendolo, ha corrisposto a questo passo. Devo dirti che sono arrivata nella terza fase, quella del macchiato con cacao. Non sono ancora arrivata a quello, al vero caffè napoletano, però questo rapporto si vede anche nella mia confidenza, se vuoi, col barista. Il bar sotto casa, che già quando entro mi dice: oh, la signora un macchiato con cacao, già mi fa sentire la gente del ma scusa, quante tappe ci sono in questa evoluzione dell'integrazione a Napoli? A quanti a meno caffè? È la mia, secondo me sono nella terza. Per quello che mi riguarda, la quarta sarà il vero caffè napoletano, no? Quando ti aspetteremo, mi sentirò veramente cittadino di questo ti posto. Aspetteremo e ce lo racconterai. Pochi sanno che in Italia i romeni sono più di 1 milione, quanti esattamente? 1.200.000 sono le ultime date fornite dalla Caritas a giugno, sono dei residenti, parliamo di residenti, perché i romeni dopo il 1 gennaio 2007 sono cittadini della comunità europea. Lì cambia il discorso della legalità, dei documenti e la facilità di integrarsi, di interagire anche col territorio, perché si sa bene, quando una persona ha dei diritti, anche dei doveri, giustamente, che deve rispettare, però quando l'inserimento tramite i documenti è più facile, allora anche questa persona risponde meglio, no, ai doveri. È chiaro. Della clandestinità e della... Scusa, ma i tuoi connazionali sono tutti ubriachi, denunciati, stupratori? Perché io su Google, scrivendo rumeno, mi appaiono questo tipo di aggettivi. Sì, purtroppo sì. Io non vorrei vantarmi, però questa cosa, ho scritto un articolo per l'Internazionale qualche mese fa proprio su questo tema. I romeni sono 1.200.000, per forza sono più visibili delle altre comunità, però purtroppo esistono anche tanti pregiudizi, tanti stereotipi, perché alla fine di questo si tratta, no, sui romeni, perché se facciamo la prova anche con gli albanesi di sicuro ci uscirà, però possiamo fare anche la prova con l'italiano e ci uscirà l'ubriaco, no, perché sarà quello ubriaco, sarà quello il pirata della strada. Non sono peggio degli altri e le date ci confermano il fatto che non sono peggio degli altri. Cioè tu dici, a un certo punto c'è stato un passaggio di testimone in questo triste, esatto, primato del pregiudizio, e l'italiano ha sostituito l'albanese, che veniva associato appunto al criminale, così per antonomasia, al rumeno. Per alcuni episodi, soprattutto intorno al momento dell'odioso episodio, lo ricorderemo, esatto, che ha riguardato Reggiani. Esatto, guarda, novembre 2007 è stata veramente una sorta di spartiacque per quello che riguarda la percezione dei romeni in Italia. È stato un evento estremamente triste che ha portato in prima pagina i romeni. Però io, quando sono interrogata su questo tema, dico sempre che dobbiamo tenere presente qual era il momento politico in quel novembre 2007. Non dimentichiamocene quello che è successo dopo. E io mi dico sempre, e ripeto sempre in base alla mia esperienza, in base alle corrispondenze che ho fatto per la radio, il fatto che ci sta una sorta di movimento ciclico, se vuoi. Guarda, in questo momento era bisogno, l'immigrazione è sempre un asso nella manica per la politica, sia per la politica italiana in quel contesto, sia per la politica romena, perché se sulla stampa italiana abbiamo avuto una sorta di campagna di stampa in cui il romeno era spesso sinonimo per delinquente, persona spregevole, insomma, o delinquente, e sulla stampa rumena è stato trasformato in una vittima, un altro passo, nel martire, il perseguitato. E quindi tu hai questa equidistanza che ti permette di valutare gli sbagli di un paese e gli sbagli anche di un altro. Questa è la caratteristica interessante di chi fa il corrispondente dall'estero e da anni. Da quanti anni sei in Italia? Da 8 anni. Hai un italiano veramente incredibile. D'altronde la lingua, la radice della tua lingua madre agevola, immagino, l'acquisizione dell'italiano. Giustamente, perché alla fine questo è anche una delle ragioni per le quali i romeni arrivano in Italia, no? È la nostra radice comune. Non dimentichiamocene che siamo due paesi neolatini e questo facilita molto. Poi ci sta la passione dei romeni per l'Italia, anche perché ci riconosciamo nella vostra cultura, nelle vostre tradizioni, anche nei vostri errori. E a questo punto... quindi anche prima di seguire un corso di italiano si è in grado di seguire una conversazione in italiano e capire il 60-70%? Fino a un certo punto sì, guarda, ci aiuta, a noi romeni ci aiuta molto che il fatto che studiamo il latino a scuola, ci aiuta, studiamo molto, si fa molto, il francese si studia e alla fine la radice è quella, poi puoi capire. E se mi permette, visto che vivo a Napoli, no? Delle similitudini. Dobbiamo chiudere. In napoletano si dice lasciamo in pace, in romeno si dice lasciamo in pace. Allora chiudiamo con una rivederci. E ti lascio in pace, l'ho preso come un invito, grazie. No. Grazie Gabriella. Gabriella Pentelescu è corrispondente della Radio Nazionale Romena, Romania Actualitati. In Italia ha scritto anche per Metropoli l'inserto dei giornalisti stranieri della Repubblica. Mogli e buoi dei paesi tuoi, questo è il contributo che abbiamo ricevuto da alcuni ascoltatori che con l'SMS ci hanno fatto sapere in maniera così elegante, un po' subliminale, ricercata, abbiamo fatto anche fatica a decifrarla, che loro no, proprio un capo straniero non lo vogliono e sono contrari all'importazione di cervelli stranieri. Noi proprio di questo stiamo parlando, di immigrazione qualificata. Volete darci la vostra opinione? 349-238-6666, questo appunto il numero SMS, oppure telefonateci all'800 24 00 24. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E non c'è niente di grigio, infatti, in moglie e buoi dei paesi tuoi, posizioni nette e in fondo si è anche affrontato poco il problema dell'arricchimento dal punto di vista umano, dal punto di vista professionale e dal punto di vista economico che una classe dirigente globalizzata può portare. E dunque saluto i miei ospiti, comincerei con Beda Romano, si trova in Germania. Buongiorno Beda. Buongiorno. Beda Romano è il corrispondente del Sole 24 Ore dalla Germania e proprio da lì ci ha annunciato ieri e in questi giorni, si sta occupando di immigrazione qualificata, di un cambio di rotta anche del paese in cui vive. Cos'è successo in Germania, Beda? Ma è successo che il governo sta riflettendo in questo momento all'immigrazione qualificata, ad aprire le frontiere agli ingegneri, agli scienziati, a matematici che non sono europei e che potrebbero venire in Germania a lavorare. Il governo sta riflettendo a questa misura particolarmente nuova e particolarmente drastica per la Germania perché per due motivi fondamentalmente. Prima di tutto perché c'è una carenza di manodopera qualificata in questo paese. Mancano gli ingegneri in molti settori dell'economia, per esempio. E quindi le imprese stanno facendo pressione sulle terre sul politico per tentare. E c'è proprio un calcolo di quante teste manchino. 35.400 solo gli ingegneri che mancavano in Germania. Ora, molti dei paesi dell'Ocse sono alle prese tra l'altro con un tasso di natalità risibile o addirittura in negativo ed è chiaro che si pensi all'importazione di questi cervelli per ricoprire posti importanti. Ma in un periodo di crisi economica, quando si parla di questi temi, molti in qualche modo pensano di essere minacciati nel proprio posto di lavoro, nel senso che c'è ancora questo abbinamento tra chi arriva e ruba il posto di lavoro, e coloro che invece in un paese vivono e dovrebbero aver diritto a una sorta di corsia preferenziale. Saluto anche Giovanni Papperini da Roma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Giovanni Papperini ha un'attività interessante da 24 anni dello studio Papperini. Si occupa di relocation dei manager e quindi da sempre è alle prese con queste persone con PhD, lauree prestigiose, esperienze acquisite in campi molto specifici che arrivano in Italia. E cosa succede, Papperini? Succede che in Italia non vengono ben accolti per vari motivi. Uno dei motivi, diciamo, di non accoglienza è una burocrazia non flessibile, non adatta a questo genere di persone. Magari ci sono delle normative che sono più adatte alla massa dell'immigrazione, a gestire la massa dell'immigrazione poco qualificata, ma non a gestire in maniera adeguata l'immigrazione altamente qualificata. Quindi si vengono a creare dei colli di bottiglia, degli imbottigliamenti, per assurdamente, forse è più facile, più semplice fare assumere una colf che assumere il presidente di una multinazionale, far entrare in Italia il presidente di una multinazionale, perché ci sono delle indicazioni. Le è capitato di riscontrare queste difficoltà? È capitato, ad esempio, un americano presidente di una multinazionale che doveva essere inserito in Italia come amministratore di questa società, però pur essendo dipendente comunque dall'azienda, dalla multinazionale americana, sarebbe dovuto entrare come fuori quota, articolo 27, però come lavoratore autonomo. Al che ci sono stati dei grossi problemi, perché a Roma in particolare non l'hanno voluto far entrare, accettare la sua pratica come lavoratore autonomo dipendente da multinazionali, perché non lo hanno considerato, non hanno considerato accettabile questo tipo di pratica. Quindi abbiamo dovuto trovare un escamotage per farlo entrare come lavoratore autonomo puro. È stato l'unico caso in cui... No, ce ne sono tanti, ci sono molti casi per cui anche tutte altre pratiche di persone che entrano anche fuori quota con l'articolo 27. Ma che fanno? Qual è la loro specialità? La loro specialità sono ingegneri, sono controller, quindi si tratta di funzioni centrali, per cui senza la possibilità di far entrare queste persone le multinazionali non vogliono investire in Italia, perché hanno la necessità di avere del personale che conosca i loro prodotti, i loro servizi, faccia anche da trade union con la casa madre e abbia la possibilità di avere un'esperienza sul territorio nazionale, come noi, come gli italiani che lavorano per queste multinazionali hanno all'estero, quindi un trasferimento all'interno di gruppi multinazionali di queste professionalità. Tutti questi ostacoli burocratici, lei ci sta dicendo, insomma, è un ostacolo anche all'investimento, cioè non solo non attiriamo cervelli, ma addirittura abbiamo questo problema del non... C'era un'idea di agevolare questa immigrazione altamente qualificata semplificando l'articolo 27 con una normativa che doveva eliminare il nulla osta al lavoro. Questa era una normativa del 2009 che ancora adesso, a un anno di distanza, non è stata attuata. Ma quindi abbiamo anche dirigenti clandestini sul territorio? Beh, proprio clandestini no, però magari irregolari sì, per quali sono costretti magari per restare in regola a stare 3 mesi qui, magari in esenzione di visto oppure come con un visto per affari, e poi ufficialmente dovrebbero tornare all'estero se in 3 mesi non si riesce a completare la pratica di immigrazione. Molte volte non ritornano e rimangono sul territorio come clandestini. Può capitare. Senta, Papperini, ma qua già ci scrivono gli ascoltatori, abbiamo i precari che se ne vanno, abbiamo i cervelli italiani che fuggono, perché dovremmo agevolare l'ingresso di questi stranieri? Ma perché ormai siamo in una società globalizzata dove quello che conta è il merito, non l'essere parte di una determinata nazione, quanto avere una certa capacità. Ora purtroppo in Italia quello che è un problema centrale è il mancato riconoscimento del merito, sia per gli italiani che per gli stranieri. Quindi c'è un'idea sbagliata che noi possiamo mantenere la nostra competitività chiudendo completamente le frontiere, anche il personale altamente qualificato, il che non è fattibile, non è possibile, perché ormai il mercato è internazionale, quindi come i nostri giovani vengono, i nostri giovani migliori vengono attratti dalle università americane e reclutati altrove allo stesso anche modo. Noi dovremmo importare, essere liberi di poter importare determinate personaggi, determinate qualifiche alte. Se no il saldo rimane in negativo e rimaniamo senza una classe dirigente competitiva, in grado di relazionarsi con gli altri, in grado di innovare e di cambiare alcune dinamiche e nelle imprese naturalmente e nelle università. Abbiamo ripreso il nostro corrispondente dalla Germania, Beda Romano. Ora speriamo di poter continuare la comunicazione, perché abbiamo preso spunto proprio dalla tua analisi. In Germania, paese che aveva cercato di fare del protezionismo dal punto di vista delle risorse umane, si è capito che bisogna cambiare rotta. Mancavano solo nel settore metalmeccanico 35.400 ingegneri. Ma dal punto di vista della percezione dell'opinione pubblica, questo cambiamento di direzione è accolto bene, Beda? Ma direi è accolto bene in generale. Naturalmente in tutti i paesi europei, anche la Germania, vi sono sacche di protezionismo, vi sono settori dell'opinione pubblica dove l'immigrazione è considerata più un pericolo che un beneficio e un vantaggio. Ma credo che questo paese abbia due fattori dalla sua e che permettono al governo di proporre soluzioni di questo tipo. Il primo motivo è che questo è un paese di vecchia immigrazione. Ci sono in questo paese circa 7 milioni di stranieri su una popolazione totale di circa 80 milioni, quindi il 10% degli abitanti è straniero. C'è quindi una certa abitudine. C'è anche una certa abitudine ormai cinquantenaria, direi, di avere degli immigrati. E il secondo motivo invece è un motivo molto più congiunturale, molto più recente. Questo è un paese che negli ultimi 5-10 anni si è proiettato sui grandi mercati internazionali. Questo è un paese che le cui esportazioni sono circa il 50% del prodotto interno lordo. Questo è un paese che esporta enormemente macchine, automobili, beni di investimento, tutto. Tra l'altro, Beda, sottolineiamolo, sfruttando anche la propria emigrazione, quella che approdò nel secolo scorso, per esempio, in Brasile. Sì, assolutamente. Questo è un paese che sfrutta enormemente. Purtroppo non ho dati, evidentemente, ma io sono praticamente certo che la forte proiezione internazionale di questo paese è frutto di vari fattori, naturalmente, ma credo che il fattore immigrazione giochi tantissimo e gioca nei due versi. Gioca perché in questo paese ci sono molti stranieri e questi stranieri sono, bene o male, possono essere utilizzati dalle aziende per esportare, e dall'altro questo è un paese dove vi sono emigrati in giro per il mondo, e il Brasile è un ottimo esempio. Quante camere di commercio brasiliano tedesche esistono? Sono 13 in tutto. Beh, questo già la dice lunga sulla possibilità, la natura e l'ammontare, la quantità degli scambi tra i due paesi, sfruttando in senso buono naturalmente quei tedeschi che emigrarono in Brasile e che oggi sono naturalmente privilegiati nel gestire dei rapporti di scambio culturale e commerciale. Beda Romano, interessantissima questa tua analisi e osservazione, grazie per il tuo tempo. Naturalmente noi abbiamo due ascoltatori che attendono di raccontare la propria esperienza e avremo poi una storia interessante da raccontarvi con la diretta interessata. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E sì, pensano che dovremmo importare del capitale umano, rinnovare la nostra classe dirigente, insomma immigrazione qualificata, il 53% di quelli che hanno votato al sondaggio di Radio 24, che significa che il 47% delle persone ha dei problemi ad avere un capo straniero. Ci scrivono sugli SMS: in Italia ancora non si accetta il capo donna, figurati magrebino, indiano o con leggia. Beh, in realtà invece normali in tanti paesi all'estero. Abbiamo detto la parola a chi aspetta in linea e vuole raccontarci la sua esperienza, ma soprattutto vorrei sentire un cacciatore di teste. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Da Verona. E si chiama? Gilberto. Gilberto, lei fa il cacciatore di teste. Sì, sì. E voi cercate stranieri? Sì, sì. Dicevo prima alle vostre collaboratrici che abbiamo riscontrato alcuni aspetti, molti aspetti positivi. Il primo è che quando un capo è straniero, di cultura o di comportamenti culturali diversi, sì, entra in un'organizzazione italiana, l'azienda nel primo momento ha un piccolo sconcerto, ma dura pochissimo. Poi si registrano benefici, ma c'è un altro beneficio molto importante. All'interno delle organizzazioni aziendali esistono delle potenzialità italiane, sono ragazzi che hanno studiato all'estero, che vorrebbero fare un'esperienza multinazionale, che hanno un'apertura mentale, che sì, si sentono senza un capo che la pensa come loro, si sentono estranei, frustrati, e non particolarmente sfruttati o valorizzati, o utilizzati. Mentre con un capo, in questo senso, emergono delle comportamenti, delle potenzialità che sarebbero sopiti a tutto beneficio anche dei loro colleghi, ma soprattutto dell'azienda. Senta, velocissimo Giovanni, perché lei ha un'esperienza molto interessante, però qui c'è il timore, segnalato anche da chi ci scrive, che questi capi stranieri aumentino la situazione di crisi dell'occupazione, cioè rubino il posto, detto volgarmente, così ci viene segnalato. Sinceramente dico una cosa molto brutale, ma se parliamo di profili di talento, si devono svegliare i talenti. Scusi, la spieghi meglio, cosa vuol dire? Nel senso, cioè, lei dice comunque non ci fosse questo talento straniero, non è che l'italiano può prendere quel posto. No, perché se tra una rosa di candidature che noi proponiamo ci sono due stranieri e tre italiani, e l'azienda italiana, pur pagando di più, sceglie quello straniero, ci sarà una ragione. Vuol dire che manca qualcosa nelle competenze dell'italiano. Grazie Giovanni. Abbiamo anche un brasiliano economista in linea che vuole raccontarci la sua esperienza. Orlando, veramente un minuto. Pronto? Sì, buongiorno. Per me, io condivido in parte ciò che avete parlato, perché mi ritrovo nella stessa situazione. Cioè, credo soltanto che nel confronto con la Germania, cioè noi abbiamo metà, cioè in Italia ci sono tre volte in più la quantità di università che ci sono in Germania. Ovviamente la quantità di laureati in Italia è molto più grossa che la Germania, è per questo che c'è la difficoltà dell'inserimento dell'immigrato qualificato, come avete detto. Beh, comunque, nonostante il numero di università disseminate sul territorio, mancano in questo momento 57.000 qualificati, vogliamo definirli così, o laureati anche nel mondo del lavoro italiano. Grazie Orlando da Mantova. Noi ora vorremmo raccontarvi questa storia, anzi la racconterà lei. Do il mio buongiorno, è un onore che l'Italia attraga anche persone di questo genere che potevano benissimo campare, ma in maniera più che benestante, soddisfacente, non so più quali aggettivi utilizzare per descrivere quello che lei ha lasciato per venire in Italia ad affrontare questa specie di slalom. Lei si chiama Andy Shiras, ha vissuto e studiato a New York, ha un master in informatica e giornalismo e ora vive in Italia. Buongiorno Andy. Buongiorno. Come si trova? In Italia mi trovo benissimo, è ormai da 7 anni che vivo qua, però cosa ha lasciato? La lotta con la burocrazia per immigrazione continua. Ci racconti cosa ha lasciato? Aveva questa sede di lavoro prestigiosa a Soho, una casa alla West Village? Io praticamente sono cresciuta a Dubai, però grazie a una borsa di studio sono andata a studiare a New York University per informatica e giornalismo. E dopo la laurea ho preso questo lavoro per un'azienda che fa consulenza per i Fortune 500 a New York, come Ford e Armani, e quindi a New Lei York è una technology project manager, cioè cosa sì. Significa in italiano? Significa che quando le grandi aziende vengono da Razorfish per chiedere aiuto per fare un nuovo sistema informatica, noi facevamo queste cose e gestivamo. Quanti anni aveva quando era impiegata lì? 21 anni. Quant'era il suo stipendio annuo? $75,000 all'anno. E ora ha lasciato tutto questo pensando, con l'ottimismo che caratterizza chi ha una laurea e una specializzazione all'estero, di trovare un lavoro equivalente e facile da reperire anche in Italia. Si era innamorata dell'Italia nel corso di un programma di studi. Esatto. E quindi era tornata a Firenze, ha lasciato tutto. Cioè vado lì perché quello è il paese che mi ispira, che mi piace. Sì. Cos'è successo invece? Invece è successo che nessuno poteva darmi indicazioni come andare avanti nel senso di immigrazione, anche se tutti mi hanno detto, anche all'ambasciata italiana a New York, che in Italia ci vuole queste qualificazioni, però non c'era un modo di far vedere questa differenza nella mia pratica, di far vedere che avevo qualche skill specificati per l'Italia. E invece ci sono state persone che mi hanno detto sarebbe meglio se mi faccio la pratica come per lavoro domiciliato, come un golf. Come una golf, sarebbe più facile. Sì. Dove sì. ha passato la mattinata lei ieri, Andy? Mi scusi? Dove ha passato la mattinata ieri? Ieri? Sì. Al lavoro. E poi una tappa ancora una volta con l'avvocato alla sì. posta. All'ufficio e proprio alla postale. Posta, all'ufficio postale, ci sono questi kit per golf che sono già confezionati, facili da mandare, e per questo ci spiegava Papperini, che si occupa di relocation dei manager, è quasi più facile regolarizzare una golf, anzi togliamo il quasi, che un lavoratore con laurea e PhD. Ma Papperini, nella sua esperienza, l'Italia ha anche dei problemi di mentalità o sono semplicemente dei problemi burocratici che rendono la vita impossibile a chi vuole venire a contribuire alla ricchezza di questo paese? No, purtroppo sono anche problemi pratici, non solo burocratici. Mentre negli Stati Uniti basta alzare la cornetta del telefono e dopo poco ti attivano la linea telefonica, risolvi una serie di problemi. Qui in Italia, se non hai amicizie, se non hai qualche società che ti aiuta dietro, se non hai una pazienza estrema e molto, molto tempo da perdere, non riesci neppure a trovare una casa adeguata alle tue esigenze, ad avere un servizio internet adeguato. Insomma, qualche volta fa cascare veramente le braccia a questi manager extracomunitari abituati a girare per il mondo e ottenere in brevissimo tempo tutto l'occorrente per poter lavorare. E quindi a volte si scoraggiano, partono? Si scoraggiano, perché francamente è scoraggiante qualche volta perdere molto tempo per firmare un contratto di locazione, per ottenere l'internet. Quindi sono qualche volta veramente sono delle è un altro biglietto da visita che presentiamo come Sistema Italia a chi viene per lavorarci. Dunque non abbiamo solo poi le motovedette alle frontiere, ma anche i guardiani dei privilegi, e da qui scatta la mentalità per cui meglio chiudere le porte ai manager stranieri per preservare i privilegi dei nostri nostrani. Servono anche politici istruiti, ce lo segnalano i messaggi, e 2/3 dei capi di Stato nel 1990 per esempio avevano studiato all'estero, questo contribuiva a renderli degni agli occhi dell'elettorato. No, non è più così, se ve lo state chiedendo. Grazie ancora per averci seguito. Ci ritroviamo domani mattina con Bianco o Nero. Buona giornata da Irene Zerbini.